nascosta in mezzo ai fior. Dove m'hai dato un bacio a primavera, ricordi quella sera ancora. T'aspetterò laggiù, sotto le stelle d'oro. Ti stringerò più forte sul mio cuore e non ti lascerò mai più. Si schiuderanno le rose mentre tu verrai da me, canterà il vento le cose più belle per te. C'è una chiesetta amore nascosta in mezzo ai fiori. T'aspetterò laggiù sotto le stelle e non ti lascerò mai più.